se Saltelli, segna Balotelli, e se Saltelli, segna Balotelli. Grazie della convocazione, mister. Mister Ginta, finalmente dopo 2 anni di tribuna mi ha convocato, volevo ringraziarla. Non stiamo a dire che sento tutto il giorno Radio 24, la lascio accesa anche la notte, tanto sono sola. Io zappavo la terra. Tutti convocati di Carlo Genta. Tornarem a ser grans i tornarem quan sortim d'aquesta tempesta que amaguem rere rostre indiferent però cou i ens fa sentir que hi tornarem. Trencar aquest desencert comença en un mateix. Buongiorno a tutti, Franco Piantanini, autore di questo programma, Roberto Scaltritti in regia. Allora, quella che state ascoltando è la canzone che accompagnerà questa sera il Barcellona in campo contro il Milan. L'ha scelta direttamente il capitano Puyol. A me sembra un po' funebre, non lo so, ditemi voi. Io avrei... visto che sui giornali spagnoli si parla di remontada in tutti i modi, in tutte le maniere, in tutte le direzioni, remontada di qua, remontada di là, eccetera eccetera, avrai scelto qualcosa di più allegro, però contento Puyol, contenti tutti. 800 24 00 24, numero verde. Tra un po' andiamo a Barcellona a sentire che aria tira lì e ovviamente oggi è il vostro giorno. Per quelli che ti faranno Milan e per i gufi che, come ripeto sempre, ci stanno e fanno parte del gioco, 800 24 00 24, oppure messaggi 349 238 6666. C'è chi mi dice, Carlo da Firenze, mio omonimo, che sono un gobbo monotono e intima di cacciarmi volentieri. Se mi danno una bella liquidazione mi caccino pure. Un gobbo monotono? No, né gobbo né spero monotono. Ma adesso sentiamo, a proposito di Milan-Barcellona, Galliani, via. Non puoi certamente pensare che sei 2-0, comunque troveremo 100.000 persone, troveremo un ambiente caldissimo, troveremo una squadra fortissima. Allora, ripeto, siamo qua anche se la giochiamo. Messi, io ogni volta che vedo il risultato del Barcellona nel sottopancia di Sky, dico, ah, che strano, ho segnato Messi questa sera, stranissimo. Messi è un mostro, segna con una continuità incredibile. Speriamo che si riposi, e martedì che sia un giorno di riposo. Parrucchieri lo fanno lunedì, speriamo che Messi il riposo lo faccia, ecco, martedì i centravanti riposano. E questo era Galliani, sentiamo anche Allegri e poi via Barcellona. Credo che bisognerà essere molto più bravi della partita dell'andata. Dovevamo essere la vittima sacrificale sia all'andata che al ritorno. No, quando giochi contro il Barcellona non sei mai tranquillo. È normale che sono, come ho detto all'andata, sono molto curioso. All'andata perché era la prima partita e mi incuriosiva a vedere la mia squadra giocare contro il Barcellona. Ora, visto che siamo su 2-0, mi incuriosisce come riusciremo a giocare questa partita. E queste le dichiarazioni. Abbiamo cambiato musica, eh? 800 24 00 24. Ma secondo voi come finisce? Secondo me sarà una lotta lunga. Stasera rigorino per il Milan, scrive un ascoltatore. Speriamo rigorino per il Milan, ma tutta la vita, se non siamo gufi. Se siamo gufi, speriamo in un rigorino per il Barça. Come volete voi. 800 24 00 24. Dalla Spagna, corrispondente della Gazzetta dello Sport e nostro storico amico, ciao Filippo Maria Ricci. Buon pomeriggio. Allora, che aria tira? Beh, sole, un po' di nuvole. Sole, vabbè, vai al punto, fratello. Che ce ne frega del sole e un po' di nuvole. L'aria che tira, no, per me è buona. diciamo che sono molto meno spavaldi che tre anni fa, forse hanno imparato la lezione questi del Barça. Senti, quando... poi facciamo sentire anche la lezione di Mourinho, quella di due anni fa, che è sempre... Sogno-ossessione, sempre d'attualità. Grandissima, no. Ma gridano nel bosco per farsi coraggio, Iniesta e la mano sul fuoco, sul passaggio del turno, e Messi così convinto, e Puyol che dice vinciamo 3-0. No, non, insomma, queste sono dichiarazioni che la stampa ha un pochino pompato, non so come dire. Ieri, per esempio, anche Piqué ha detto chiaramente le dichiarazioni al giornale cinese, io le avevo riportate abbastanza fedelmente dicendo speriamo di vincere 3-0. Su altri giornali sono finite direttamente vinciamo 3-0 e lo dedichiamo a Tito. Insomma, non è, in realtà loro... lo sanno che sono scioccati, secondo me questo è lo stato del Barcellona, è uno stato di shock. Non pensavano di perdere 2-0 a San Siro, non pensavano di prenderle così abbastanza sonoramente dal Real Madrid in Coppa del Re, e non pensavano di trovarsi in questa situazione. E poi è chiaro, Piqué è un bel dire, dice no, comunque la nostra stagione è ottima, sarà un'ottima stagione perché vinciamo la Liga, che va bene, non gli si può dire niente certamente, però la squadra che ha fatto negli ultimi 4 anni 2 vittorie, 2 semifinali, se adesso uscire agli ottavi, bisogna vedere quali saranno poi le reazioni, diciamo la reazione a catena di un'eventuale uscita. Che poi ci credano, hanno ragione. Adesso non è che improvvisamente il Barcellona non è in forma, questo lo sappiamo, però resta comunque una squadra che ha un 7-8 campioni d'Europa, un giocatore come Messi, quindi se si ritrovano... Se gli girano i 5 minuti ti bruciano, vabbè, questo lo sappiamo, dai. Però l'atmosfera, cioè io avverto una discreta paura, insomma, è più la sensazione di ma com'è possibile? Cioè, davvero siamo andati a San Siro e abbiamo perso 2-0, cioè, questo è un po', no? Dice, ma come è potuto succedere? Sì. E da lì quel Milan viene molto rispettato, c'è anche da dire questo. Tre anni fa c'era Mourinho, no? Quindi catalizzatore, no? Di essere di frizioni, per cui lì potevano alla pentolata, facciamo rumore, quando era arrivato allo stadio c'erano stati un po' di problemi, insomma, era diverso. Adesso si guarda, ci sono solo aspetti calcistici, sì. E gli aspetti calcistici preoccupano. Questo, perché loro pensano, cioè la gran paura è che il Milan possa segnare, con tutto che Il Milan stasera un gol lo fa. E io così adesso mi becco degli improperi, magari, del nostro ascoltatore. 800240024, c'è chi mi scrive, ma lo volete dire che a Barcellona si cagano sotto? Lo stiamo dicendo, ragazzi. No, così adesso addirittura 0-0, secondo Manuel da Treviso, oppure io non ce la faccio a tifare una squadra che non sia il Napoli, io gufo, mi scrive Araldo. Fa parte del gioco, no. Voglio anche i gufi, li voglio. No, sì, è chiaro che ci sono i gufi, però bisogna tifare per le squadre italiane. Questo io lo faccio che io sempre. Ormai sono un emigrante con la valigia di cartone, però bisogna tifare per le squadre italiane perché abbiamo bisogno di punti in Europa. Cioè, se no tra un po' ci andiamo con 2 squadre in Champions. Sì, no, infatti hai ragione. Io ne faccio una questione veramente così, quasi opportunistica, insomma. Di bandiera, dai, via. Sì, insomma, è una partita molto... guarda, senti questo rumore, sono tifosi del Milan, guarda, che stanno passando qua... Fammi sentire. Sento nulla. Ah, cantano Messi Maricon, Messi Maricon, la traduzione la lascio... Se vuoi. La traduzione la lascio alla libera interpretazione dei nostri ascoltatori. Sono belle scene, in diretta abbiamo visto, quindi, no. Ciao Filippo. Ciao, ci sentiamo domani. Ciao Filippo. Maria Ricci, ragazzi, 800240024, vi aspetto, adesso il traffico, poi di nuovo qui. L'unico messaggio è che, come ho detto al principio, a día de hoy es difícil decirlo después de la eliminatoria que tuvimos ayer, pero pongo la mano en el fuego por mi equipo para pasar la eliminatoria. Es lo que tenemos que pensar todos. Tutti convocati. Ragazzi, state con noi perché oggi ovviamente viviamo insieme queste ore di vigilia di Barcellona-Milan, facendo il tifo pro contro. Luca su Twitter scrive da Hannover: un gollettino del Faraone, poi vediamo se la remontata da meno 4 la fanno. Però scrive anche Forza Juve, quindi Luca da Hannover, juventino non gufo. Io aspetto anche i milanisti, aspetto invece i gufi. E poi vi prometto che nella seconda parte scopriamo anche chi è la talpa dell'Inter, pensate voi. 800 24 00 24, il numero verde. Abbiamo anche Ambrosini da far sentire, sui giovani che insomma stasera giocheranno Niang e Sharawi. A proposito, mossa di Allegri, Pazzini rotto, non nemmeno convocato per questa trasferta. Mi sembra buona l'idea di giocare con Boateng, col fisicaccio di Boateng, centravanti tattico, a buttarsi a rompere le scatole ai primi passaggi del Barcellona, e Niang da una parte e il Sharawi dall'altra, i ragazzini. È così che si gioca contro il Barça stasera, ci vogliono gambe, lucidità, freddezza. Ambrosini: se un giocatore vuol diventare un grande giocatore è giusto che passi attraverso queste esperienze e magari ne subisca un pochettino le conseguenze, speriamo non troppo. E poi sono giocatori nostri che sono, a dispetto dell'età, secondo me sono già molto smaliziati. Meravigliosi messaggi, non tutti, alcuni. Gufo presente, in tasca ho la bolletta SNAI con il 4-0 per il Barça, remontada, Luca interista. Stasera tutti a tifare Barcellona, ma andiamo a casa con i montati del Milan, scrive un altro ascoltatore. Ma io con gli ascoltatori ci voglio parlare. 800 24 00 24. Enzo Pescara, buongiorno. Pronto, Enzo ancora, buongiorno. Mi scrivono Pescara, dico Pescara, ancora meglio. Sono juventino, ma stasera tifo Milan. Ah, quindi... perché sono italiano. Bravo Enzo, quindi, quindi non fa parte dei gufi. No, io penso che il Milan può perdere anche 2-1, perché un gol come segna. Facciamo la firma con il sangue subito, caro Enzo. Ok, ciao, ciao, ci sentiamo ciao. Domani e vediamo come è andata. 2-1, ma se il Milan, secondo me, se il Milan segna stasera il turno lo passa. E io non lo so, mi tengo l'impressione che il Milan un gollettino lo possa anche fare. A proposito, vi ho promesso la lezione di Mourinho, che racchiude secondo me il senso di come si deve affrontare il Barcellona, cosa che il Milan conosce benissimo. Allora, torniamo indietro un po', scaramanticamente un po' no, a un paio d'anni fa, e allora Mourinho spiegò così la vittoria della sua Inter sul Barça. La squadra si è adattata in un modo veramente spettacolare, come era una partita dove io non volevo la palla, perché ci sono partite dove si vuole la palla, io non volevo la palla, perché Barcellona vuole pressare la palla, se noi non abbiamo palla come possono loro pressare? Non possono pressare perché non c'è palla, la palla era palla loro, la statistica deve essere 95% di possesso palla, il famoso tiki-taka, tac-tiki, tiki-taka. Però sembrava che noi eravamo con 11 perché gli spazi erano veramente ben occupati. E invece erano in 10 perché Maicon fu espulso, vi ricordate, dopo una manciata, Thiago Motta, vero? Non Maicon, ma Thiago Motta fu espulso dopo una manciata di minuti. Ma il senso è questo: il Barcellona vuole la palla, lasciamogliela e facciamoceli sbattere addosso, poi vediamo dove vanno con quel pallone. Attilio, provincia di Venezia, buongiorno. Sì, salve, sono Attilio. Sì. Niente, vorrei, cioè, penso che questa sera sia molto dura per passare, però un golletto senz'altro lo faremo senz'altro. E vorrei parlare della partita precedente, che proprio non avevo, cioè, se lei dice, se lei dice un golletto lo faremo, vuol dire che passa il Milan, lo sa, no? Sì, no, è quello il discorso. Sì, è dura, però un golletto lo faremo, così, senz'altro. No, perché dicevo, perché mi avevo prenotato l'altra volta per essere convocato, no? Dal dottor Genta. E non ero così convinto, insomma, che ce la facesse, anche perché con la tattica di Allegri, visto il precedente di Barcellona-Milan, no? Che aveva messo quello biondo che era il Genova, no? Come? Maxi Lopez, no? Ah. Cioè non aveva messo Maxi Lopez, aveva messo dentro il Seedorf, no? Sì, stiamo parlando di un'altra storia però, eh. Sì, sì, no, ma per dirle che per quello non ci credevo l'altra volta. Perché dopo hanno adottato la tattica che avevo in mente io e come che avevo in mente Berlusconi, no? Cioè che bisogna aggredire. Cioè siete d'accordo? Lei e Berlusconi siete d'accordo? Sì, d'accordissimo, perché avevo parlato con mio genero, no? Che era milanista, no? E quindi non si va a nessuna parte, quindi bisogna aggredirli. Se mettevano Maxi Lopez si poteva perdere comunque. Sì. Però meno male li rompeva le scatole e li correva dietro. Attilio, stiamo parlando di un'altra storia, questa è diversa, mi sembra un Milan diverso comunque. Maxi Lopez gioca nella Sampdoria e forse per il Milan è meglio così, ma... In ogni caso mi pare che sia il caso di guardare al Milan che giocherà stasera e mi sembra che la formazione sia corretta, mi sembra che il Milan stia benissimo fisicamente e mi sembra soprattutto che abbia idee molto chiare Allegri. C'è chi scrive su Twitter Juventinissimo, voglio che il Milan passi il turno per prendermi la rivincita a Wembley di 10 anni fa a Manchester. Ci sta anche questo, ma adesso torniamo a Barcellona. Pretendo quando torno a casa che mi dicano sempre: eccellenza, è arrivato il signorino Tancredi. Che bonito sui piedi, ma si supiera. Il signorino Tancredi, di cognome Palmieri, inviato della CNN, anche a Barcellona. Ciao. Buongiorno ragazzi, c'è un sole pazzesco, a me dispiace dirlo per voi, però veramente sì, spiace. C'è un motivo per cui non essere qua in questo momento. Se poteste vedere quello che sta passando davanti ai miei occhi, ce ne sarebbero anche due almeno di motivi per essere qua. La smetti? Va bene, la smetto. No, perché sennò io, cioè, voglio dire, tu fai conto, sono a Milano, piove, son chiuso dentro qua, non posso venire e tu mi dici queste cose? Va bene, ma sono famosissime le mirabili bellezze che sfilano a Radio 24, qui non ti puoi lamentare. Sì, no, soprattutto oggi non mi lamento. Okay. Va bene, ok. Senti, invece parlando del sole, del calcio. Invece di sole e gnocca, parlami di pallone. Cosa Guarda, succede? Io sono rimasto colpito da una cosa, che andando al di là della gran cassa dei giornali sportivi, della retorica blaugrana, che c'è da sempre, molte volte ragione, però insomma quella gran cassa per cui se non vinciamo noi il football non è giusto e la nostra è l'unica maniera buona di giocare, io ieri sono rimasto molto colpito, questo era il più grosso, però devo dire che ci sono anche delle piccole voci oltre a quello, molto colpito dall'approccio dell'Avanguardia, che è il quotidiano locale di Barcellona, però locale è un po' riduttivo perché è un quotidiano nazionale, come dire la Stampa per Torino, insomma. Certo, certo. L'Avanguardia ieri sottolineava come non ha senso attaccare in maniera sterile come si è fatto tutto il tempo, addirittura l'attacco era con Kennedy. L'Avanguardia diceva attaccava dicendo: una guerra incondizionata non porta a una vittoria incondizionata, e insomma criticava nel limite guerra, in quanto possa no criticare. Guerra mi pare troppo, ma il Barcellona non può neanche cambiare pelle in una notte, quindi il Barcellona farà il Barcellona, poi vediamo quanto ne ha per essere un Barcellona plausibile, per essere un Barcellona in grado di compiere questa remontada. Dal Barcellona che ho visto io nell'ultimo mese e mezzo, insomma, non mi aspetto tantissimo. Poi lo dichiaro, guarda, faccio il tifo, non sono io, buffo. Però devo dire questa discrepanza, loro infatti criticavano anche Xavi, insomma velatamente, sì. Xavi in conferenza stampa che diceva: dal primo minuto dobbiamo sfiancargli altro, e dicevano forse è venuto il momento per qualcos'altro, e secondo me sono anche importanti le parole di Piquet in conferenza stampa, a parte che insomma la scelta di mandare Piquet è significativa, perché Piquet è uno d'orgoglio, è uno che deve tirare la squadra, però quando Piquet dice avremo il campo come lo vogliamo noi, il tempo come vogliamo noi, i tifosi come vogliamo noi, l'irrigazione come la vogliamo noi, non ci sono più scuse. Quando uno dice non ci sono più scuse, vuol dire che altre volte ci sono state scuse. E allora, anche se non sono venuti a dirlo a noi in conferenza stampa, ma evidentemente nel vestuario, nello spogliatoio delle scuse, alcuni le hanno sentite. Poi, Carlo, secondo me dipende molto da una cosa, perché è ovvio il Barcellona e tutto, sappiamo che molto dipende da Messi, dipende da Napoleo Messi, se smette di fare il dittatore, Napoleo, e si mette a fare... si mette a servizio. Guarda, ti segnalo una cosa. Dimmela. Per me potrebbe, magari no, però dovessi uscire, sarebbe la prima volta che il Barcellona uscirebbe prima delle semifinali dal 2008 a oggi. Ah, ma per chiamiamola questo... chiamiamola fine di una era, se dovesse essere. Ma magari, magari anche no, però chiamiamola comunque una pagina di storia recente che il Milan può scrivere a suo vantaggio e che il Barcellona può subire. Questa sera una partita molto importante anche per questi significati. Senti, signorino Tancredi, ti saluto, grazie, ti invidio, ciao, un abbraccio ragazzi, una birra alla vostra salute. Come no, non ho detto niente, ma anche quella borsa, poi torniamo. 800 24 00 24, vi aspetto qui. Questa sera tifo Mila perché sono italiano. Tutti convocati. Io zappavo la terra. Allora, ragazzi, tra un po' scopriamo chi è la talpa, eh? Ma io vi aspetto per parlare di questo e altro, per parlare di Milan-Barcellona, per parlare della crisi dell'Inter e del Napoli come abbiamo fatto ieri. Poi parliamo anche di rugby con un giocatore che in campo a Twickenham c'è stato, grande figura dell'Italia anche se senza risultato. Stasera speriamo in una grande figura del Milan. Con qualificazione acchiappata invece, salvo i gufi naturalmente. Non sono milanista, ma Barcellona-Milan 4-2 al 92esimo, gol di Constant. Pensate un po' cosa scrive Mirko su Twitter. Constant che tra l'altro gioca, era in dubbio, invece giocherà per il Milan. 800 24 00 24, come al solito voglio parlare con voi. Roberto da Verona, buongiorno. Buongiorno, convocato Roberto. Convocato Roberto, gufo o non gufo? Gufo, gufissimo. Grande. No, prima ho sentito Mourinho e dopo purtroppo faccio una chiosa sulla mancanza, ricordo, di chi era stato espulso in quella giornata storica per noi interisti. Sì. Ecco, questa sera naturalmente noi interisti abbiamo solo un tifo per il Barcellona. Anche solo... se per affinità... saremo più vicini a Real, diciamo. Sì, solo un tifo che per il Barcellona, lo capisco, però in casa vostra una tristezza infinita, me lo permetto. Lo so, però sentendo Mourinho prima, passando di un altro argomento... Ragazzi, ma vivere di ricordi, ricordi no. Se può mica, tutte le volte. Io capisco, capisco, però... Ma la questione è la motivazione, secondo me, perché anche il Milan è lo stesso Milan che anche lui ha perso, mi pare, in casa col Bologna a inizio campionato. Sì, è che e dopo 8 partite era terz'ultimo, o 7 partite era terz'ultimo, e adesso, Mourinho, adesso è davanti all'Inter. Il motivatore Mourinho, quando dicevano che Mourinho è solo un motivatore, ben venga. No, non è solo un motivatore, è un grande allenatore, infatti la lezione di tattica vale anche oggi contro questo Barcellona. Si gioca così, come ha spiegato Mourinho: la palla la volete, io non la voglio, ve la regalo, poi vediamo, venite qui, vediamo se riuscite a passare la prima linea, poi la seconda, poi la terza. E bisogna correre, bisogna avere le idee chiare, bisogna essere molto lucidi e molto freddi, lo dicevo prima, e l'Inter fece un capolavoro quella notte a Barcellona. 800 24 00 24, fermo, non di nome ma di città, Valentino. Sì, buongiorno. Sono in linea? Certo che è in linea. Salve, sì, chiamo da Fermo. Allora, la mia domanda era la seguente: oggi sarà un test probante per il Barcellona per il seguente motivo, cioè, ovvero, dato che non si può essere integralisti del tiki-taka, vedremo se l'establishment tecnico del Barcellona avrà l'intelligenza di cambiare il suo stile di gioco e adattarlo anche a quello degli avversari. Tipicamente le squadre italiane che generalmente sanno che per difendersi dal loro gioco devono giocare in 8, in 9, dietro la linea della palla ed in difesa. Sì. Vi faccio un esempio parallelo. Il Borussia Dortmund, che è una squadra che comunque sia fa del gioco, diciamo, spettacolare, comunque sia del buon gioco, la sua prerogativa, ma nel momento in cui deve cambiare stile di gioco, un gran maestro come Jürgen Klopp cambia stile di gioco. E quindi il Barcellona dovrà, secondo me, oggi dimostrare questa capacità. Ma secondo me il Barcellona non cambierà pelle contro il Milan. Si tratta di vedere quante gambe ha, perché nelle ultime partite mi è sembrato ne avesse poche. Non dimentichiamo il fatto che il Barcellona gioca ormai da tempo senza un allenatore. Questo secondo me fa tutta la differenza del mondo. Poi per battere il Barcellona devi giocare così, come ha spiegato Mourinho, come ha fatto vedere il Milan all'andata, come quei pochi che l'hanno battuto nelle ultime stagioni. E cioè devi lasciargli la palla. No, se ti metti a giocare a calcio con loro ti spaccano in due, anche un mezzo Barcellona come questo. Quindi è evidente che la strategia e l'idea non possa che essere quella. Dobbiamo solo giocare, dice Sandro Rosell, presidente del Barça, senza aggiungere altro. Mentre entrando in un ristorante del Barrio Gotico, dove è in corso il pranzo di Giuda, sapete che si trovano a pranzo i dirigenti delle squadre prima della partita. Ebbene, dirigenti del Barça e del Milan a pranzo questa sera. Stasera ognuno va per la sua strada. Io è un sacco di tempo che ho voglia di parlare con il mio amico Paolo Bargigia da Mediaset. Ciao Paolo. Ciao, buongiorno a tutti. Sono io che ti sfuggivo o tu che non mi chiamavi? Tutte e due le cose. Ah, ecco, bene. Prima la prendo larga, posso? Sì. Milan-Barcellona? Ma... Cioè Barcellona-Milan naturalmente, o comunque questo confronto, questa sera, gufi o non gufi... No, Io vorrei vedere una squadra italiana che fa un'impresa. No, certo, secondo me la lettura è che se il Barcellona segna nel primo quarto d'ora, allora poi diventa davvero tanto dura. Se il Milan riesce a resistere, il Milan sta bene fisicamente, è in una condizione ottimale per una sfida del genere. Il morale e la condizione fisica salita così tanto che stanno ultimamente anche mascherando le pecche individuali in difesa, perché la squadra aiuta molto rispetto a qualche mese fa. Secondo me può farcela se riesce a superare indenne, come ti dicevo, non prendere gol all'inizio, sennò diventa veramente un bailame incredibile. Forse qualche possibilità in più per il Milan nel passaggio del turno. Beh, è facile, c'è il risultato del 2-0, ma non solo per il risultato, ti dicevo, vedendo le condizioni delle due squadre, come a mio parere. C'è una talpa al vertice dei servizi segreti inglesi. E da un bel po' che è lì. Sai che l'ho presa larga, Paolo? Sì, no, poi non ti ho più sentito. Mi hai chiesto di Barcellona-Milan, ma poi mi sono perso. Ti sei perso. C'è una talpa tra i servizi segreti discorso... inglesi. Senti la musica della Pantera Rosa? Sì, certo. Allora, fuori il nome. No, il discorso di Pazzini, intendevi? Discorso di Pazzini. Il discorso... La talpa all'Inter? Ma sai, non è che ce n'è una, perché secondo me dipende dalle fonti. Ce ne sono larga tante. Dipende la larga, dai momenti, dalle fonti. Io, per esempio, quando facevo l'Inter come cronista, scoprì la cosa di Vieri con Zaccheroni allenatore, che non lo fece giocare col Bologna, lui se ne andò via dal ritiro, no? Allora poi... tutti volevano sapere chi mi aveva informato e ognuno diceva la sua. Altro, per punizione non facevo più le trasferte con la squadra, non potevo più andare sull'aereo perché il povero Facchetti mi impediva, sempre con la sua bonomia, la sua classe, di salire perché tu stai giù. Che confessassi la talpa. L'ho presa larga, però non era la talpa che pensavano loro pensavano fosse un giocatore, e nella fattispecie si erano messi in testa che fosse Cannavaro, invece non era stato lui, quindi non è che c'è una talpa fissa. Secondo me Pazzini su questa vicenda qua si riferiva, secondo me, non ne ho una certezza, si riferiva ai leader dello spogliatoio che sono gli argentini cambiasse Zanetti, cambiasse ma non Zanetti. Perché io abbia sospetti che loro siano talpe, ma perché ha acclarato che lui si è lasciato malissimo con loro e che imputi alla guerra, fra virgolette, che gli hanno fatto Zanetti e Cambiasso la sua partenza dall'Inter, ecco, il suo essere scaricato, lui non aveva rapporti con loro ed evidentemente riflette certe cose che si scrivevano su di lui come segnali che passavano da dentro e lui pensa che siano stati due argentini, ecco, sì. Io poi però Paolo, ecco, questa è la mia è la tua lettura. Ti chiedo ancora questo, oggi leggo di un Moratti arrabbiato. Branca ha detto: il futuro dell'Inter saremo ancora io e Stramaccioni. Non ne sono così convinto. E tu? Sì, no, anche perché a domanda, però Branca aveva anche detto di questo, ne abbiamo parlato con Moratti, ieri Moratti ha risposto dicendo sì, ecco, ha detto bene, nel senso che poi sono io che decido e vediamo a fine stagione. Guarda, su Stramaccioni ho la quasi certezza che sia arrivato al capolinea e che secondo me se ci sarà, non ci sarà una reazione decisa tra giovedì col Tottenham, credo difficile, poi in campionato Sampdoria e Juve, io credo che Stramaccioni possa essere anche sonnetto prima, a beneficio della strana coppia Figo-Baresi. Per quanto riguarda il futuro di Stramaccioni, sicuramente credo non sarà più lui l'allenatore, diciamo 10 possibilità su 100. Branca tantissime volte è stato lì per essere in qualche modo esonerato, però si è sempre salvato. Moratti è nella fase in cui ancora ha rimesso un po' Branca nel mirino per il mercato, però sul mercato c'è da dire che in verità i giocatori che hanno preso sono stati tutti chiesti da sì. Stramaccioni, eccetto Rocchi, che era un po' secondo loro un'occasione a basso costo. Poi vabbè, Moratti parlò con Lotito e gli sconsigliarono di fare l'incontro e dovette pagarlo anche di più. Canzone a però, basso costo. A parte il mercato, a Branca imputano anche la scelta degli allenatori negli ultimi anni e anche il rapporto che non ha con la squadra. E quindi non lo so se riuscirà a salvare ancora, ma sicuramente Stramaccioni non ce la farà, secondo me. Paolo Bargigio da Mediaset, grazie, a presto. Grazie a te, grazie. Ti abbraccio, ciao. Grazie. 800 24 00 24. Adesso sentiamo il traffico e poi abbiamo un ospite che ha giocato a Twickenham l'altro giorno con l'Italia del rugby e poi naturalmente chiudiamo con voi. Tutti convocati. Dunque abbiamo sentito l'urlo di Twickenham, abbiamo messo paura agli inglesi dopo due partite negative per l'Italia del rugby nelle Sei Nazioni, adesso abbiamo ritrovato fiducia. Allora, uno che in campo a Twickenham c'è andato, Simone Favaro. Ciao Simone. Ciao. Beh, insomma, agli inglesi abbiamo messo paura e abbiamo ritrovato un po' di autostima dopo due partite difficili. Era importante ritrovarsi, era importante dare un segnale che ci siamo, ma penso che anche questo segnale ha scaturito attenzione degli irlandesi che non verranno di sicuro qua a prendere questa partita sotto gamba. Senti Simone, quanto ha pesato la vittoria sulla Francia nelle due brutte partite con la Scozia e con il Galles? Perché si dice che noi italiani siamo fatti così, no? Cioè, quando ci sentiamo forti è il momento in cui crolliamo. Quando abbiamo un po' di paura, come a Twickenham, diamo il meglio di noi. È una domanda bella complessa, perché non so se sia un discorso prettamente culturale. Io penso che quanto ha influito la vittoria della Francia, ti rispondo niente. Anzi, è stato un tassello in più. È stato il dopo. Penso che nella nostra competizione ogni partita è una storia a sé, non si guardano mai le spalle. Guarda il Galles che è partito male e adesso sarà in finale contro l'Inghilterra l'ultima partita, quindi è relativo. Dopo che sia un discorso prettamente culturale nostro, ben venga, la prossima volta che succederà miglioreremo, cosa vuoi che ti dica. Senti Simo, l'Irlanda ci deve temere a questo punto, no? Perché sarebbe bello chiudere questo Sei Nazioni con due scalpi, quello della Francia, ed è un'impresa storica, e quello dell'Irlanda, che tutto sommato sarebbe un'altra impresa storica. L'Irlanda non ci deve temere, perché se ci teme arriva il 100% ed è ancora più dura. L'Irlanda deve dire: cazzo, l'Italia la dobbiamo ammazzare, questa è la speranza nostra. A prescindere da tutto, ma sono sicuro che l'Irlanda ci teme. Questa senazione abbiamo lasciato dei segnali molto positivi. Abbiamo ritrovato una partita contro la Scozia, contro la Francia. Abbiamo perso male contro la Scozia, ma comunque esprimendo sempre un buon rugby, quindi penso che non sarà per nessuna delle nazionali facile batterci. Sì, e poi noi diciamo: cazzo, vi battiamo noi, e chiudiamo Sei Nazioni con le braccia levate in attesa dei mondiali, Simo? Ovvio, gli lasciamo il San Patrick dopo, che è la loro festa, la vittoria sta dando a noi, va bene così. Siete carichi? Cosa vi sta dando Brunella? Perché io ho l'impressione che con gli allenatori francesi noi cresciamo sempre. Io nessuno me lo leva dalla testa. È vero, sono una filosofia molto simile, anche se siamo noi italiani molto orgogliosi ed avere un francese non ci fa tanto comodo, però Jacques è una persona che è entrata immediatamente nel gruppo e penso che ha preso il cuore e la testa di tutti i giocatori, quindi sì, ci stiamo caricando. Essere già carichi adesso sarebbe sbagliato, la partita è sabato, ma per sabato vogliamo arrivare tutti carichi. Grande Simone, bocca al lupo, grazie. Ciao, buona giornata. Ciao Simone Favaro, dunque sarà in campo con gli azzurri per questo Italia-Irlanda che noi assolutamente vogliamo. Siamo una squadra, essendo italiani, magari le volte che abbiamo quella sensazione di poter magari battere una squadra o di essere più forti di un'altra squadra, è là dove sbagliamo ed è là dove facciamo le brutte partite. Quando abbiamo quella un po' paura, diciamo, di affrontare le grandi squadre, e beh, là facciamo delle belle partite. Quest'anno l'abbiamo fatto sia contro la Francia che oggi contro l'Inghilterra. Sono lo sceicco Giordano, da dove cresce il petrolio. Sono lo sceicco Giordano, non vengo a Roma in cammello. Ma perché mi fanno tutte queste feste? Sei il figlio dello sceicco. No, si sono accorti che io sono napoletano. Sceicco napoletano. Amico mio, i meridionali all'estero si sono sempre piazzati. Dammi la Roma. Ragazzi, due giorni e poi smettiamo anche con questo tormentone, perché ricordiamo che il 14 lo sceicco Giordano dovrebbe cacciare 50 milioni, la deadline è quella. Ieri abbiamo detto che non si trovava più, oggi leggo sul Messaggero: il presunto sceicco della Roma è in mora con le banche di 4.000 euro, non ho detto 40.000, 400.000, 4 milioni, 4.000. Non solo, ma nei primi giorni di gennaio ha chiesto alla filiale di Roma di un grosso istituto del nord un'apertura di credito di 1.000 euro. Non ho detto 10.000, 100.000, 1 milione o 1.000. Apertura di credito di 1.000 euro. Qui è stato detto picche. No al piccolo prestito, probabilmente si spiega con la presenza dell'arabo nelle partite in sofferenza evidenziate dalla centrale rischi di Banca Italia, cioè il database che annota gli affidamenti fatti ai singoli clienti, da cui risulta che c'è un debito di 4.000 euro non restituito a qualche banca italiana. Sto leggendo il Messaggero. Io voglio la Roma, ma chi ci crede? Ha tanta fede, Alberto Macerata, buongiorno. Poi tutti a casa ad aspettare Barcellona-Milan. Gufo o non gufo? No. E ci sentiamo poi dopo alla fine per gli spottò e basta. Ah, vabbè, ok. Allora perché, gufo mascherato da Colomba. No, ma da interista ricordo quella partita nostra, che non riesco più a trovare i 20 minuti finali in cui San Siro era muto e il Barcellona attaccava e tirava in porta. Adesso il Milan gli ha tolto un po' quell'aurea di invincibile, allora loro hanno paura, quando vanno in remontata hanno paura, punto. Quindi è molto difficile per loro, però sono sempre il Barcellona. Morale, Alberto da Macerata, gufo mascherato, manca pochi secondi alla chiusura della trasmissione, buttali un pronostico, buttali un risultato. Beh, vince il Barcellona, credo che comunque il Milan riesca. Vince il Barcellona quanto? Penso un 3-1 c'è sicuro. 3-1, quindi sì, sofferenza atroce per i milanisti. Beh, 3-1. No, ma è 3-1, va bene, no? Ah, come no? Era peggio l'inverso. In che senso? Perché vinceva il Barcellona, sarebbe 3-1 a Milano per il Barcellona e 2-0 per il Milan. Ah, no, capito. Vabbè, tanto domani ne parliamo, Stesso posto, Alberto, grazie, stesso posto, stessa ora, tutti convocati domani dalle 14 alle 15. E ho l'impressione che di cose da dire ne avremo, Vi aspetto tutti. Franco Piantanida, autore di questo programma, Roberto Scaltritti in regia, ciao a tutti. Ciao direttore. Direttore a chi? Ciao. Tutti convocati.